Amico, certe volte mi sveglio che mi pare di essere un gatto tirato sotto da un camion. Sei al corrente degli aspetti stoici del bere pesante, del bere duro? Oh, è pesante, è dura, per niente facile. Appena sveglio, la gola mi ha informato di essere coinvolta nei postumi della sbornia. La prima sigaretta avrebbe incendiato una pista di polvere da sparo giù fino all'arsenale del petto. Mi sono battuto sulle tasche e l'ho accesa comunque. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da me. Viva 2012. È 2 gennaio, lunedì. Asilo semideserto, sì. Postumi, sbornia e altro. Insomma, ogni commento adesso è superfluo e anche fastidioso perché c'ho mal di testa. Ma chi lo dici dopo i bagordi di ieri? Che cosa hai fatto ieri? Tris di primo in bianco, come mi avevi consigliato tu, no? Sì, riso in bianco, pasta in bianco, minestrina in bianco. Un brodo in bianco, no? Sì. Un po' di formaggine. Poi a letto alle 9:30. Ma come? Non hai nemmeno brindato la mezzanotte? Potevi aspettare, no? Tiravi un po' lungo la minestrina, no? No, con l'acqua non si brinda, io non posso bere. Beh, insomma, un capodanno da bambino, guarda. Sì. O da anziano. No, un capodanno da rottame. Tu invece cosa hai fatto? Ma no, io niente. Male, tutto normale. Non vergognarti a dirmi che hai mangiato e bevuto come un pazzo e sei poi andato a ballare in funivia con George Michael. Non ti invidio. Ma quale funivia? Quale George Michael? Allora, quello si fa a Natale. Ah, giusto. Ieri era Capodanno, quindi niente funivia e niente George Michael. E quindi cosa hai fatto? Ho fatto un falò con gli U2. Però, sì, però c'era freddo. In cima una collina in mezzo alla neve, no? A cavallo. Sì, sì, Irlanda, non so, il video di New Year's Day. Una noia mortale credo, rispetto a George con le mesh e la tutina sari, da sci, insomma. Sì. Sono più sari. Le persone sarie non ci sono più. Fai la minore. Aspetta, Madonna, sto smartphone non va. Non ci sono. Voglio più l'ukulele. Voglio, però, di nuovo il mio ukulele vero, fisico. Perché lo smartphone non fa neanche il la minore. E insomma, altro che persone serie qua. Non si riesce neanche a condurre una trasmissione. Insomma, siamo un programma sario che va su una rete saria. Siamo uno smartphone sario. Ci vorrebbe uno smartphone sario. Non ste robe qua che mi regalano a Natale. Io non so, ma chi è che me l'ha regalato? Drago, non è che me l'avrei regalato tu sto qua, No. Ma insomma, la qualità corrisponde. È mio. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? Chiedo asilo! L'ex bambina ed ex galeotta Erika De Nardo, quella di Novi Ligure che uccise mamma e fratellino, insegnerà ai bambini del Madagascar. Inutile chiedersi che materia insegnerà, Drago. Come sbarazzarsi di mamma e fratellino in meno di 10 minuti con aiuto di fidanzatino strafatto di cucaina. Ecco, purtroppo però i bambini malgasci, così si chiamano malgasci, quelli del Madagascar, dai, a cui insegnerà, saranno in larga parte già orfani per cause naturali, insegna, tipo cioè malattie, proiettili vaganti, cose così. Quindi prevedo una stagione difficile per la povera Erika. Vedi cosa come insegna? Vanno sprecate le risorse nel nostro paese. Una ragazza con un know-how assurdo, invidiabile come il suo, la mandiamo in Madagascar. Dai, è inaccettabile. Si fa sempre un gran parlare di fuga di cervelli, ma in questo caso la fuga è agevolata, addirittura incoraggiata da Don Antonio Mazzi, sempre attento di solito alla valorizzazione dei talenti giovanili italiani, in questo caso invece un po' distratto. Sì, perché noi vogliamo che Erika insegni in Italia. Il suo è un insegnamento prezioso, deve essere un diritto acquisito, certo, per noi, per lei. Deve lavorare. Soprattutto potrebbe insegnare qualcosa al bambino Alberto, che in famiglia ha dei grossi problemi. E ora, bambini, ricreazione! A me mi piace il blues e tutte le orla già cantare! Yoris! Perché sono state zitte un momento e oh, mi sfidate! Buon anno anche a te. Che sei fatto di bella a Capodanno tu? A Capodanno? A Capodanno ho fatto il solito, no? La cenetta in famiglia, capone, brodo, lo spumante, poi la fetta di pandoro, poi abbiamo acceso le stelline quelle che fanno le scintille tutte colorate. Mezzanotte, certo. Quella è bella, E poi, stavolta mi hanno fatto buttare una micetta. Una micetta? Una micetta di quelle piccole, che scoppiano, e se possiamo scappato via. Poi dopo, alle 10, sono andato a dormire, no? Alle 10? Alla nostra età. E beh, che tu cosa hai fatto, scusa? Io sono stato a Capodanno, abbiamo mangiato tantissimo, abbiamo fatto le 6 del mattino con mio fratello in giro per la città con la macchina. Ma come? A spaccare le bottiglie di vetro, quelle avanzate, a scoppiare i botti, boom, boom, boom. Ma chi? Ma tu, con tuo fratello, ma tu sei un minore. Ma come fai? Come sono minore? Oh, io sono povero, ma a Capodanno è di tutti. Ma no, volevo dire, visto che sei un minore come me, a me quella roba lì mica me le fanno fare. E poi non c'ho un fratello di 39 anni. Giro i macchina tutta la notte, non si può, piacerebbe anche a me tirare i petardi, quello soprattutto sì, quello l'abbiamo sì. Scoppiati un sacco, io e mio fratello Alberto abbiamo scoppiato un sacco di petardi tutta la notte fino alle 7 del mattino, pom pom pom. Ma dimmi un po', come? Ma che bombe, fate? Sembrano delle bombe, ma sono pericolose, voi le tirate lontano poi scappate, no? No, noi le tiriamo pure vicino, vediamo l'effetto che fanno, le mettiamo dentro i tombini, le mettiamo dentro le lavatrici, le facciamo spam, esplodere proprio completamente. Ma io, a me piacerebbe provare, ma a me mica me le fanno fare sta roba qui. Non mi comprano i petardi. Come petardi? Quali petardi? Ti sto dicendo di bombe, trick e track a muro, pom pom pom pom. Vabbè, è roba che scoppia, no? È roba che scoppia, sì. Ti avanza qualche round? Sì, mi avanza Alberto, io se vuoi domani te le posso portare, te le voglio regalare tre. No, me le regali davvero? Sì, non hai mai provato? No. Allora te li voglio regalare io. Grazie, io non so come ringraziarti, domani me li porti? Sì, domani te li porto, però tu devi portare 50 euro Alberto. E come 50 euro? Mi hai chiesto che me li regali? Perché io te li regalo, ma quelli sono di mio fratello. Tu me li regali, però sono di tuo fratello. Il mio fratello ce lo dobbiamo pagare. E tuo fratello costa sempre 50 euro. 50 euro, sì. Certo. Qualsiasi cosa fa, 50 euro. È un lavoro, no? Certo che è un lavoro. Cosa cambia da un lavoro quello? Già, lui fa e uno paga. Certo. Il discorso, in effetti, in teoria. Siccome l'altra volta, scusa. Appunto, proprio di questo volevo parlarti, l'altra volta. I 50 euro delle sigarette. Io non ho visto più né un euro né le sigarette. Come è andata a finire? Giusto per sapere, visto che siamo una società? Scusa, ma tu non fumi? Già, io non fumo. Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora, facciamo che io facevo il freestyling e tu facevi il coro. Volenterissimo. Gildo, che noia mortale giocare da solo a battaglia navale. Gildo. Gildo. Sono triste e solitario. Gildo. Facciamo che tu eri... Gildo. Il mio amico immaginario. Freestyling. Gildo. Vai con la base. Gildo. Gildo. Sei come un fantasma. Gildo. Nessuno ti vede. Gildo. Ma c'hai la voce con l'asma. Gildo. Siamo culo e camicia. Gildo. Io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il coro. I wanna get a fight freestyling. Gildo. Facciamo merenda? Giochiamo rinvii. Montiamo una tenda. Questa volta paghi tu. Anzi, mi dai adesso 100 euro? Gildo. Che poi dopo. E dopo tu te li fai dare da tua madre, no? E allora dammi, no? Gildo. Allora. Signore! Dopo la morte dell'amato leader Kim Jong-il, Il figlio Kim Jong-un, che già nel nome è meno determinato del padre, perché il è un articolo determinativo e uno è un articolo indeterminativo, Tito, stai bravo, ecco, Kim Jong-un è stato visto abbordare le gran fighe nordcoreane vestite di sacchi di juta con la frase d'effetto: volete venire a vedere il mio arsenale nucleare pronto a esplodere per mancanza di manutenzione. Questo è molto divertente. La morte del leader nordcoreano è stata accolta con indifferenza dalla politica internazionale, Drago. Corea del dire Nord, questo, no. Se ne sbattono. E certo, non ha mai praticamente avuto legami diplomatici con nessuna nazione, quindi però, isolata. In Italia però, Drago, ci distinguiamo sempre per una carità cristiana unica e inimitabile. Ai tempi di Ocalan, non so se ti ricordi, un parlamentare di Rifondazione Comunista aveva aiutato il capo del PKK a venire in Italia. Nascosto. Poi c'era, ma poi i tempi della guerra contro la Serbia. Sì. Cossutta che sfida le bombe della NATO per andare a rendere omaggio al compagno Milosevic. E adesso, alla morte del caro leader Kim Jong-un, il leader del Partito Comunista Sinistra Popolare Comunista di Sinistra Comunista Popolare, Marco Rizzo, sì, quel torinese pelato che sembra Crozza, sì, ha scritto su internet che il segretario del partito e il responsabile esteri hanno espresso dolore e presentato le proprie condoglianze al popolo nordcoreano per la morte di Kim Jong-il, guida della causa rivoluzionaria dell'ideologia Yuke e del partito, dell'esercito e del popolo della Repubblica Democratica Popolare di Corea. Rizzo. Basta, insomma, cioè era un leader, un caro dittatore leader, che con leader, degli occhiali, i capelli, sembrava Elton John. Lo so, anche lui, però. Però cosa? Era una persona umana. Sì, umana. Però è in Corea, cioè. Nord Corea. Dove fanno questo telefonino, cioè in quella sud. E siccome questo telefonino me l'hai regalato tu, perché io ho capito, l'ho regalato io. Ma non c'era il biglietto sul pacchetto. È un telefonino che fa schifo, ma non puoi avermelo regalato tu, che hai regalato tu. Ma non te l'ho regalato io. Tu. Vabbè, ha regalato allora, tu. A domani. Ha regalato tu. Agli24.it. Ha regalato tu. Scrivete sulla bacheca. Ma senti, facciamo un programma sull'infantilismo. Ci deve essere qualcuno che fa il pirla o no? Cioè, se vuoi chiamare Garanzini. Non lo so. Perché Garanzini... Ma Garanzini è uno serio, no? Insomma, la plomba inglese. Sì. Fare il pirla al massimo chiami Cruciani.